culo. È spagnolo, drago, dai, stai, concentrati. Gamba. Gamba, va bene. Sì, ma vuol dire granchio. Come vuol dire granchio? Sì. Cuvo. Cuvo. Dai, cubo. Ah, cubo. Che però vuol dire secchiello. Ma vabbè, ma allora è tutto sbagliato, scusa. Pelota. Pelota. Vabbè, pelota. È bella la pelota. Chiedo asilo. Oggi parliamo di guerre commerciali e politiche tra i governi, le aziende alimentari e i ragazzi delle scuole. Tutti insieme, sì. In un secchio, sì. Con le uova sopra. Esatto. Tenente Drago, cosa c'è? Presto, si metta la mimetica! Sta dicendo, comandante capo? Ma no, è una guerra, comandante capo. Si tratta di una guerra commerciale, non di una guerra. Ah, ok. Sarà vero che le merendine e le bibite gassate fanno ingrassare i bambini? Sarà vero? Chiedilo agli studenti del Kansas City. Del Kansas City. Sì, di cui parlavi la settimana scorsa. Vabbè. Tra l'altro lo sai che del Kansas City, di Alberto Sordi, sì, eccetera, eccetera, in realtà era un'idea di Mimmo Rotella. Ma artista, certo, pop. Che gli aveva detto il Kansas City. Perché aveva vissuto un po' di tempo a Kansas City e quindi c'era questa cosa del Kansas City. E quindi chiediamolo agli studenti del Kansas City, però non abbiamo un numero di telefono dietro, quindi vabbè, ma restiamo in Italia. Ah, scusa, volevo dire che tra l'altro Mimmo Rotella. Ah, beh, anche lui. È morto. No, ma restiamo in Italia. Io credo che le merendine e le bibite gassate facciano male. E lo crede anche il ministro Catania, così come lo credono le scuole della Brianza e della provincia di Milano che aderiscono alla campagna 100 giorni di frutta. Cos'è? 100 giorni, cioè? 100 che per 100 giorni i bambini mangiano solo frutta? Ma no, cioè per 100 giorni a scuola viene servita della frutta a metà mattinata al posto delle solite merendine e delle pizzette, capito? Mi sembra un'idea che non fa una grinza. Se lo dici tu. Solo che è uscito fuori un pediatra che si chiama Italo Farnetani, che probabilmente è al soldo delle multinazionali delle merendine, che ha smontato il progetto dicendo che facendo così si creavano degli adulti che avrebbero poi odiato la frutta. Ma è giusto, ma tu immaginati, scusa, che se il bambino Alberto fra 20 anni, non so, lo rincontriamo. Sì, ma se siamo ancora vivi. Se, esatto, se non siamo come Mimmo Rotella. È morto. Secondo te Alberto fra 20 anni finocchi cotti li mangia? Ma secondo me gli viene la nausea come a te se adesso senti l'odore, non so, del Cointreau o del... sì, capito? Esatto, però dai, scusami, la del frutta... Del Martini Bianco. Ma la frutta di solito è buona, il Martini Bianco anche, il Cointreau meno, però... Potrebbe succedere anche con la frutta. Ma i finocchi cotti fanno schifo, sempre. Quindi invece finocchi cotti ti fanno schifo quando sei piccolo. Ma cosa c'entra, Drago? Quel piede... Quel pediatra lì sarà anche al soldo delle multinazionali, ma tocca un nervo scopertissimo. Aia, è il nervo scoperto. Vedi, mi dico ragione. Se obblighi i bambini a mangiare qualcosa, stai sicuro che la odieranno? Prima o poi la odieranno. Ho capito, capa, mi dispiace per loro, però anche se odiano la frutta, la devono obbligatoriamente mangiare. E mangiarla gli fa bene, quindi vabbè, ma è così, quando sei piccolo ti fa bene la pappa reale, la pappa reale fa schifo. Ti fa bene il ricostituente e il ricostituente, Drago, schifo, fa schifo. Ti fa bene la minestrina col brodo di pollo e la minestrina di brodo col di pollo col brodo di pollo. Fa schifo. Ma come fa schifo? Vabbè, dai, non piagnucolare adesso che ormai sei adulto, nessuno ti obbliga più a far niente. Ah, lo dici tu. Perché? Perché adesso al posto di mia madre c'è il mio medico. Vabbè, certo, i tempi cambiano, se invecchia il medico diventa una specie di tutore. Cosa ti dice il dottore? Fare ginnastica fa bene. Beh, allora, fai ginnastica. Vabbè, ma fare ginnastica fa schifo. Vabbè, no? Ma siamo di nuovo lì. È come la minestrina. Non è cambiato niente da quando avevo 10 anni. Adesso, dai. Mi dice di mangiare scondito e mangiare condito fa schifo. Sì. Mi dice di non bere alcolici e non bere alcolici fa schifo. Mi dice di non fumare e non fumare fa schifo. Vabbè, ma adesso non trasformiamo questi 10 minuti in una lamentela continua. Torniamo all'iniziativa 100 giorni frutta, 100 giorni di 100 giorni alla frutta. Alla frutta. Oltre al pericolo di far odiare la frutta ai bambini, il pediatra Farnetani, veramente controcorrente, ha detto che mangiare frutta a metà mattinata è innaturale per dei bambini italiani. Solo quelli italiani? Sì, lo dice lui, perché dice che in Italia la frutta siamo abituati a mangiarla a fine pasto. Giusto, sì. E quindi se tu alle 11 del mattino dai una mela a un bambino, praticamente lo sciocchi, lo sconvolgi, capisci? Gli crei delle turbe. Eppure qualsiasi dietologo, adesso, dai, qualsiasi dietologo ti dirà che la frutta andrebbe mangiata lontano dai pasti. Ma andrebbe mangiata prima dei pasti. Sì, un po' prima oppure anche lontano, ma non dopo. Quindi l'abitudine italiana di mangiarla a fine pasto è sbagliata. Quindi cosa dice questo qui, dai? Non so, però ci stiamo trasformando in Ether Benethere qua, Drago. Ho visto anche un negozio di Ether Benethere. Anch'io. Hai visto? Comunque, secondo me Farnetani da piccolo ha subito degli shock alimentari, come succede ogni tanto. Vabbè. Io gli do ragione su tutta la linea. Vabbè, figurati se non gli davi ragione. Non mi ricordo neanche bene chi è Farnetani. Il pediatra. Il pediatra. Il pediatra. Ah. Allora, dai, basta con il paternalismo delle diete per i bambini. Vabbè, se i bambini vogliono schifezze, diamogli schifezze. Non è vero, non statelo a sentire. Dolcetti, patatine. Io mi dissocio, queste chiedono. Wunderwaffe. No, ma come? Dai, Tito! Ti ricordi il Wunderwaffe? Eh sì, è vero. Ma dove è finito? Non è più il nostro, non è più il nostro sponsor. Wunderwaffe. Ah, ein Stadtmensch. Sì, glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Wunderbar. Aber das stimmt nicht. Wir haben das frische Wunder. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Und zarter Schokifund. Wunderbar, wunderbar. Aber Vorsicht. Wunderbar. Ist cool, Ben. Aber Vorsicht. Ist cool, Ben. Wunderbar. Wunderbar. Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer. Chiedo asilo! Ma cos'è questo? No, cos'è? Ma no! Lasciati andare, drago, le Mardi Gras, voilà le Mardi Gras! Ma anche oggi! C'est le Mardi Gras! Ma come, è cominciato l'autunno? Avant tu parla? Cosa c'entra? Ma cosa c'è? Sono le castagne, qui ballano tutti nudi, basta! Io pensavo la smettessero le ballerine creole dopo un po', dai! Vedi, tiri fuori sempre queste ballerine creole! Sono qui, scusa! Ma perché non ti piace? Ma guardale, sono tutte bronzé, tutte sade, tutte vibranti, no, sode, non so come si dice sode in francese, comunque, lasciati andare. Perché secondo me, allora, se ti danno così fastidio, sì, io continuo a sospettare che tu abbia qualcosa che vuoi dire che non ci dici. Ma adesso lasciati andare, è un baccanale. Qui tutti si lasciano andare agli istinti veri. Qual è il tuo istinto vero? Ma no, dicelo. Ma il mio istinto vero, ma non c'è nessun istinto vero. Io dicevo solo che queste ballerine creole alla lunga poi fanno casino. Ma guarda che hanno un nome fantastico. Vedi, sui costumi c'è scritto Communauté des danseuses créoles. Siamo a posto. Come dai. Siamo a posto, drago? La Communauté, balla con la Communauté. Comunità, vabbè. Comunità di recupero sempre. Nouvelle Orléans, la France dans l'Amérique, la Louisiana, il Paul, le Berman, le Voodoo, non so. Comunque, drago, dai, lasciati un po' andare che rompi le balle con questa cosa del martedì, Sì. Cos'è, il broncio adesso? Faccio il broncio, ma sì. Non fare il broncio, guarda chi c'è sulla cattedra di sua dentona lì che balla. Sì. Guarda chi c'è, drago, chi c'è? Ma è Jérôme! È Jérôme! Allora, non lo fai più il broncio, eh? Come no, guarda che broncio, guarda. No, smettilo, darò a quelle labrone. Jérôme! Jérôme! Jérôme, scendi subito di lì, Jérôme, se no vedi poi che cosa ti faccio, eh? Cosa mi fai? Jérôme! Jérôme! Mancano 59 giorni alla fine del mondo. Profezia Maya, ho capito, 59 giorni. Ma sti Maya poi alla fine mica erano così bravi a fare le profezie per vedere il futuro. Perché? Dicevano che il 21 dicembre 2012 sarebbe finito il mondo, ma per loro in realtà il mondo è finito ben prima, non vedranno nemmeno questa epoca, quindi sono già finiti loro. Ma cosa c'entra? Mica parlavano per loro. Per chi parlavano? Per noi, nemmeno sapevano che esisteva l'Europa. Parlavano per l'umanità. Cosa c'è? No, ma di nuovo cosa c'è? Mardi Gras? Ah no, sono gli alieni Maya che hanno rapito Giacobbo, no? Giacobbo! Qualcuno di noi che ha studiato certe materie. Giacobbo! Come la fisica, come altre scienze. Giacobbo! C'è qualcosa che non convince, c'è qualcosa che vale la pena di essere. Come allora, risuola? Indagini per capire cosa può esserci dall'altra parte, se c'è.